Noi siamo stanchi. Allora, ma questa canzone è per quel sentimento, diciamo, è di il grande Giannone Morandi e si chiama Ti offro da bere. Grazie.